penso a te. È una vita che non ti chiamo, chiami me. Può succedere, ma nessun altro c'ha mai. Amore, amore, mio dolore nessuno trovai che assomigliasse a te, che assomigliasse a me. Sarebbe una bugia mia dirti adesso che no, no, no, non ho avuto compagnia. Sono uguale a te. Io sopra ogni bocca cercai il tuo nome, il tuo nome. Ho aspettato in che trove lo sai, che ho consegnato te, ho allontanato te dal cuore. Resta in ascolto che c'è un messaggio per te, e dimmi se ci sei, perché ti conosco, il mio posto non è con te, ti prendo già. Ogni tanto penso a te. Può succedere. Così Laura.